mondo, 224esima trasmissione dedicata agli emigrati, centenario della fondazione degli Alpini. Cento anni di arduo dovere. Questa è la scritta apparsa sull'enorme striscione che apriva l'imponente sfilata di domenica 14 maggio a Milano, a conclusione delle solenni manifestazioni centenarie organizzate dall'Associazione Nazionale Alpini ed iniziatesi il giovedì precedente a Cassano d'Adda, paese natale del fondatore del Corpo degli Alpini, generale Giuseppe Perrucchetti. A quella scritta seguivano tante altre oltremodo significative, ma particolarmente toccanti, quelle rievocanti il sacrificio di migliaia e migliaia di penne mozze in 100 anni di eroismi leggendari. Più che conquistata dai 200.000 e più alpini, che per oltre 5 ore sono sfilati alla presenza di alte autorità dello Stato e dell'intera cittadinanza, Milano si è loro offerta con generoso cuore e con affettuoso entusiasmo. Perché i raduni alpini non hanno mai fini politici o economici, né mirano a rivendicazioni o proteste. Nel ricordo delle glorie e delle tradizioni del passato sono soltanto semplici, chiare, oneste affermazioni di italianità, di devozione alla patria, di fedeltà al dovere. Erano convenuti da ogni parte d'Italia i figli della montagna, ed anche dall'estero, dalla Francia, dalla Svizzera, dalla Svezia e perfino dall'Argentina, dal Perù, dall'Uruguay, dal Venezuela. E sotto le guglie del Duomo sono fioriti, fin dalla vigilia, come nei momenti di bivacco, i cori alpini, mentre sul sagrato, in enormi marmitte, venivano cucinate colossali polente, e dal parco, attorno al castello, in 1000 posti spuntavano quasi d'incanto tende da campo per trascorrervi la notte, incuranti della pioggia che non disturberà però, nel giorno tanto atteso, l'indimenticabile celebrazione del centenario di fondazione del corpo. ...1872-1972, 100 anni di vita, 100 anni di storia. L'idea di creare un vero e proprio corpo territoriale formato da elementi reclutati nelle stesse zone che erano destinati a difendere con le prime 15 compagnie presso i distretti di Cuneo, Torino, Novara, Brescia, Como, Treviso e Udine non aveva incontrato all'inizio il favore degli organi superiori. Ma il 15 ottobre 1872 Vittorio Emanuele II firmava il decreto costitutivo. E quale nome dare a questo nuovo corpo? Prevalevano le proposte di cacciatori delle Alpi e bersaglieri delle Alpi, ma il nomignolo Alpini, che già cominciava a circolare come denominazione provvisoria, finì col diventare definitivo. In un primo tempo gli alpini ebbero la divisa della fanteria, poi a distinguerli la bombetta con la penna e alla fine il copricapo con la foggia tronco conica e la penna sul lato sinistro. C'è una lunga penna nera. Che a noi serve, che a noi serve la bandiera. Sopra i monti a guerreggia, poi la Gli alpini furono ben presto considerati truppe scelte. Tant'è vero che quando si pensò di adottare la divisa grigio-verde in sostituzione di quella meno mimetica che era azzurra, alla vigilia della guerra libica a Roma decisero che l'esperimento dovesse farsi proprio con gli alpini e precisamente con un plotone del 5° reggimento di Stanza Milano. Formati per difendere i valichi di montagna, gli alpini ebbero il loro battesimo di sangue in Africa. Nel 1887 vengono inviate in Eritrea 3 compagnie. Nel 1896 ad Adua danno il loro primo contributo, 2 compagnie distrutte. Nel 1911 ancora Africa. In Libia 10 battaglioni di alpini combattono per 2 anni e rientrano in Italia ai primi del 15, in tempo per essere mandati sui fronti della prima guerra mondiale. A Verona non si ferma più, ma la va in diretta dal Piave, ma la va in diretta dal Piave, la tradotta che parte da Milano, a Verona non si ferma più. Per la prima volta gli alpini si battono sul loro terreno, le montagne. Sono 350.000 uomini organizzati in 88 battaglioni che hanno per teatro di battaglia le Tofane, il Passo della Sentinella, l'Ortigara, il Monte Nero, il Monte Cauriol, il Pasubio, il Vodice, il Palpiccolo, il Palgrande, l'Adamello e tante altre vette arrossate dal loro sangue. Le penne mozze saranno 40.000. Nel 1935 il loro destino è nuovamente legato all'Africa per la guerra d'Abissinia. Pochi anni dopo, circa 50.000 alpini vengono mandati a morire lontano, in Albania, in Grecia e in Russia, dove scrivono la loro pagina più tragica, ma anche la più coraggiosa. Dopo lo sfondamento del fronte del Don, nel gennaio del 43, sotto l'offensiva sovietica, comincia nella steppa coperta di neve e a temperature che arrivano fino a 40 gradi sotto zero la tragica ritirata. Tornerà a casa solo la metà degli alpini, che erano partiti con le divisioni Tridentina, Julia e Cuneense. Gli alpini che fa Alcune settimane or sono, sul monte di Muris di Ragogna, ove alla chiesetta alpina è affidata particolarmente la memoria dei caduti della leggendaria nostra divisione Julia, che annovera ancora, nella formazione di brigata, l'ottavo reggimento alpini coi suoi battaglioni Tolmezzo, Gemona e Cividale ed il terzo artiglieria da montagna, è stato inaugurato un monumento dedicato a tutti i caduti nei 100 anni di vita del corpo. Quel corpo che alle medaglie d'oro guadagnate sul fronte di guerra ha aggiunto un nuovo aureo segno al valor civile, meritato nell'opera di solidarietà svolta con tanta abnegazione in periodo di pace nella terrificante sciagura del Vajont dell'ottobre 1963. I valori ideali che hanno ispirato gli alpini nell'adempimento del proprio dovere in pace e in guerra non possono essere dimenticati. Eveci e Boccia si sono ritrovati al raduno nazionale del centenario a Milano per testimoniare il loro amore alla propria terra, alla memoria di pace e di guerra, ai loro caduti che spesso hanno nomi diventati leggende. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.